corteo praticamente è arrivato. Allora, abbiamo fatto tutta la portuenza, ovviamente siamo passati qua per la prima volta della mia vita, sono riuscita finalmente a vedere là dove partì tutto il reparto mobile di Canterini, dove si allenava tutta la cenere che poi arrivò a Genova. Un'emozione che è proprio legato insomma al CIE di Ponte Galeria, questa cosa che insomma era anche la prima volta che facciamo, soprattutto dico negli ultimi anni, un corteo che passa per la portuenza e arriva appunto da dietro. Di solito ci sono fatti sempre siti comunque proprio di fronte al CIE, e invece qui siamo da dietro. Ovviamente c'è uno schieramento di forze non indifferente, adesso siamo un po' fermi qui di fronte al CIE di Ponte Galeria, che c'è questa recinzione, ricorda molto insomma, c'è un piccolo fossatino, poi la recinzione dove dietro scorrono i poliziotti, i carabinieri, la finanza, ci sembra insomma di ricordare anche immagini che abbiamo visto in altri luoghi d'occupazione. Purtroppo sì. Sono qui con una compagna che fa anche la ricercatrice e si occupa di filosofia del diritto, però in particolare soprattutto della questione migrante. Quindi volevo lasciare a lei un attimo la parola, che ci racconta un po' anche quali sono le ultime, diciamo così, legislazioni, com'è il controllo di tutti i migranti, la questione migranti, e poi di alcuni progetti che stanno portando avanti. Ciao. Certo, ciao, grazie. Pronto? Ciao, sì, sei in onda. Sì, vabbè, allora forse è il caso di ricordare ancora una volta che dentro il CIE un migrante può essere chiuso senza aver commesso alcun tipo di reato. Questo certamente lo sappiamo, ma è sempre bene ricordarlo. E mi pare anche forse il caso di ricordare, qui ci sono molti compagni, molte facce note, la prima manifestazione contro i CIE l'abbiamo fatta nel 98, nel 99. Sì, mi ricordo, siamo tutti clandestini, si chiamava. Esatto, e in un CIE all'epoca si poteva stare 20 giorni, prorogabili al massimo a 30, oggi purtroppo in un CIE si fa fino a 18 mesi, e questa cosa forse insomma non ci dà delle buone prospettive e delle speranze, però insomma penso che comunque non sia inutile. Noi in particolare a Roma 3 stiamo portando avanti un progetto in questo momento, per la prima volta finalmente ci hanno autorizzato una ricerca sui giudici di pace, cioè sulle pronunce dei giudici di pace in materia di immigrazione, perché a stabilire insomma il controllo giurisdizionale in una questione così delicata come il trattenimento di una persona fino a 18 mesi dentro il CIE in Italia lo decide un giudice di pace. Mi senti? Sì, sì, ti sento benissimo. E io non per toglierti la parola, ma ricorderei chi è un giudice di pace e soprattutto qual è la procedura semplicissima con la quale il giudice stabilisce sì, si continua a rimanere dentro un CIE oppure sì, ti l'espulsione appunto. Allora, appunto, un giudice di pace, come giustamente ricordavi tu, è un giudice nato su tutti gli altri presupposti, è un giudice che si occupa delle multe, se prendi una multa perché hai parcheggiato in seconda fila vai dal giudice di pace, è un giudice che non ha fatto un concorso, è un giudice onorario, quindi c'è di tutto tra i giudici di pace, non tutti sono neppure laureati in giurisprudenza. Però non è tanto questo il problema, è proprio come la legge ha concepito questo sistema, no? Una giustizia di serie B. Tant'è che forse una cosa che magari non si sa tanto, che il giudice di pace è un istituto tipico dei sistemi coloniali. Nelle colonie dei nuovi territori occupati, no? Mentre i cittadini potevano adire alla giustizia normale, a dei tribunali normali, comunque appunto sempre c'era anche lì una giustizia differenziale per i sudditi e quindi per chi appunto non era bianco, eccetera. Certo. Io magari il corso sta diventando un po' caldo, ecco, ciao. Benissimo. Allora, quindi noi continuiamo con la diretta e vi volevo adesso passare una compagna, soprattutto insomma sentite che ci stanno, ovviamente stiamo proprio di fronte al CIE, ci stanno un po' di forze dell'ordine sul tetto del CIE, eravamo abituati a vederci anche migranti, ma evidentemente tra le deportazioni e il sapere che oggi c'era questa manifestazione hanno attutito e chiuso tutti i migranti dentro le celle. E vi volevo far parlare, visto che ne parliamo molto poco, di quella che è invece il reparto femminile dentro a Ponte Galeria. Dentro a Ponte Galeria ci sono diverse donne che vengono rinchiuse. Nella telefonata di stamattina ne parlava anche un'avvocata che è stata che è intervenuta da sola, che parlava anche di continue violenze e di stupri che alcune volte avvengono proprio dentro il CIE. Quindi io vi volevo passare questa compagna che ti racconta un po' che cosa sta succede nel CIE, nella parte femminile. Perfetto, grazie. Pronto? Buongiorno. Ciao. Ciao. Tu ti occupi, quindi tu hai conoscenza di quello che avviene nella parte femminile di Ponte Galeria? Sì, guarda, io faccio parte della cooperativa Be Free, che è una cooperativa che si occupa di donne vittime di tratta e di sfruttamento sessuale lavorativo. Sì. E abbiamo uno sportello dentro il CIE di Ponte Galeria. Scusami, dobbiamo un attimo spostarci. Insomma, ogni mercoledì entriamo dentro al CIE per capire come poter farle uscire e inserirle in deputabile protezione sociale. Sì. Aspetta un attimo. Va bene, quindi noi continuiamo ad essere in collegamento con l'esterno del CIE, le corrispondenze vengono... Ci siamo dovuti spostare perché ci sono... C'è un momento di tensione, sì, ti ripasso l'altra compagna. Perfetto. Allora, facciamo questa diretta, adesso stanno cercando di... Raccontaci diciamo, quello che succede. Sì. Stanno cercando di sbracare le reti del CIE e hanno agganciato con degli elastici le reti del CIE e stanno tirando. Dietro ci sta la finanza, stanno tirando insomma questi bombone come sentite. E alcuni fumogeni, sta arrivando la finanza, ci stanno in tutto, c'è due con la bandiera di Ingroia, se può servire come diciamo così come nota di colore del corteo. E registriamo che anche loro sono contro i CIE, evidentemente anche loro sono contro i CIE. E niente, si sta dicendo insomma di avanzare e di continuare a stare compatti dentro il corteo. È stata fatta questa azione di appunto con le reti, sulle reti. Noi stiamo parlando di un'azione. Purtroppo qua c'è tutto un prato per cui alcuni hanno tirato dei lacrimogeni. Per cui un attimo che sto proprio in mezzo al lacrimogeno, come al solito. E quindi insomma c'è in questo momento momenti di tensione, visto che dopo questa azione dimostrativa per parlare di quello che, per fare capire, anche comprendere quello che è un CIE, se ci sono delle reti, se ci sono delle recinzioni, di tutto si può parlare tranne che di civiltà. Diverse volte abbiamo raccontato un po' quelli che sono i luoghi di passaggio tra quello cosiddetto Stato di Israele e la Palestina. E scusate perché mo sto proprio in mezzo al lacrimogio. Questa metodologia insomma, no? Che poi approfitto per ricordare che mercoledì all'Università Roma 3 parleremo proprio con Antonio Mazzò, che viene dalla Sicilia, e altri docenti universitari, nonché anche la campagna BDS, proprio con quelle che sono le tecniche di reclusione e di esclusione, per limitare, certo, delimitare la popolazione palestinese, che poi sono state diffuse e allargate all'Europa, in particolare in Italia, sperimentate ovviamente sui migranti e poi ovviamente allargate le tecniche di repressione a tutta la popolazione. Per cui proprio la struttura anche del CIE di Ponte Galeria è proprio così, perché se uno ci arriva dalla metro molte volte non capisce, no? Sì. Però invece dal lato lo capisci benissimo, c'è un fossato, ci sono delle reti, c'è un muro di recinzione, ci sono delle reti sopra ai tetti, ci sono telecamere, ci sono proprio un luogo di reclusione che ha una conformazione diversa anche rispetto al carcere, no? Certo. In cui comunque al carcere è permesso l'interlocuzione con i familiari, certo, con c'è un regolamento, delle cose che insomma, appunto, uno c'è standard minimo con l'esterno. Sì. Invece al CIE di Ponte Galeria no, ovviamente è un luogo a cui non è permesso, come tutti questi CIE, non è permesso l'interlocuzione con l'esterno, per cui è proprio strutturato in modo da impedire che da fuori si possa in qualsiasi modo avere comunicazione, avere una relazione. Certo, sì. Quindi le reti, per cui il fossato, per cui le telecamere, il luogo allucinante dove si trova, no? Perché si trova, ripeto, tra un centro dove si addestra la celere e nulla. E poi è l'aeroporto vicino, in maniera insomma che si spreca pure poca benzina, quindi, certo. Quindi adesso praticamente dopo questa azione ci sono le forze dell'ordine, adesso siamo ritornati sulla portuense, cioè le forze dell'ordine sono schierate sempre sulla portuense, invece il corteo sta girando a sinistra e si sta ricompattando e ritornando verso il piazzale dove normalmente si viene, no? per fare i presidi, sì. Quindi stiamo circondando, stiamo andando in giro al intorno, sentite che si continua a tirare dei rumori e ci sono degli slogan, ovviamente questa questione che non c'è il camion ha ovviamente impedito, è stata abbastanza studiata a tavolino questa possibilità unica appunto di interlocuzione per dentro e fuori. In questo oggi la radio è stata fondamentale per far sentire chi c'era dentro quello che succede fuori e viceversa, non è un caso insomma che hanno impedito proprio al camion di venire. E per cui adesso insomma invece gli slogan adesso sono più numerosi di prima e devo dire insomma che la partecipazione è comunque abbastanza ampia, cioè ci sta tantissima gente e la abbastanza compatta, c'è una varietà anche diciamo così di partecipazione, tantissimi anche i cartelli in lingua. Aspetta un attimo, ti posso fare una domanda per Radio Onda Rossa? Ciao. Come mai? Raccontaci un po' questo corteo, come mai ti sei venuta qua e se vieni da qualche struttura e via dicendo. Io sono una studentessa universitaria e vengo a questo corteo perché riteniamo che la vergogna, diciamo, in un paese civile di questi centri di identificazione ed espulsione debba finire. È un percorso ormai nato dal 2011, ma anche da prima, con la campagna Lasciateci Entrare, che comunque ha aperto una breccia dentro questi posti. Riteniamo che ci sia la necessità anche di una manifestazione, di un corteo importante da parte delle persone, da parte dei movimenti e di tutti coloro che si oppongono insomma a questa vergogna. Questo è il motivo principale. Perfetto. Molto chiaro. Diciamo che appunto ci stanno chiudere i CIE, aprire le frontiere, ma i più CIE, insomma, questo è un po' il tenore ancora dei cartelli, che appunto alcuni sono anche in lingua. Vi volevo, però non lo trovo più, ma penso di portarlo in radio nei prossimi giorni, un compagno italiano che vive però in Germania e lavora tantissimo contro i lager che si trovano in Germania, che nei prossimi giorni ti ho detto anche di venire in radio perché poteva essere interessante, certo, che ci raccontasse un po' quella che invece la lotta che stanno portando avanti anche in Germania, perché ovviamente questa questione dei CIE non è soltanto una questione italiana, abbiamo visto diverse volte anche quello che è successo, che succede in Spagna, piuttosto che quello che succede in Germania. In Germania c'è un grosso movimento che si occupa dei rifugiati, che si occupa delle azioni contro i CIE, ma si occupa anche perché in Germania i CIE sono aperti, per cui ci sono un sacco di compagni che fanno supporto proprio anche di qualsiasi tipo alle migranti che si trovano rinchiusi. Sì, sì, diciamo che nella classifica di questi posti orribili l'Italia sta ai primi posti come maltrattamento e negazione dei diritti, questo è proprio ovvio. Certo, noi siamo pur sempre il paese di Genova 2001, quindi questo non ce lo dimentichiamo mai. Allora, adesso ci stiamo piano piano, penso, spostando, forse ritorneremo a prendere il trenino, torneremo a prendere la metro, immagino, visto che da qualche parte usciremo o torneremo da qua, comunque, oppure a piedi. Comunque, diciamo che insomma adesso il corteo si è un po' distaccato dal... Ci stiamo ricompattando, vicino al piazzale proprio della stazione. Ricordo che qui la fermata è Fiera di Roma, non Ponte Galeria. Sì. Per cui non so se volete io continuo. Ma guarda, se a vedere tu... se c'è qualcuno che vuole parlare, se no ci sentiamo pure tra un po' che capiamo anche come. Guarda, noi mentre parlavamo prima con dei reclusi all'interno del CIE avevamo detto che li avremmo richiamati, quindi se ci sentiamo anche perfetto, tra pochi minuti. Adesso, va benissimo, vabbè, c'è così. Tutta la polizia e i carabinieri schierati, si sta ritrovando a ritirare giù le reti anche da c'è semplicemente l'entrata del CIE, per cui ovviamente c'è un momento di ribellione, di azio nei confronti di quella che è l'entrata di questo posto schifoso. Noi comunque però continuiamo a seguire, cerca di far passare oltre e di andare avanti, per cui adesso stiamo andando avanti, voi risentite dentro e poi ci sentiamo più tardi. Perfetto, grazie a te. Ed è chiaro che noi continueremo a seguire il corteo.